dividere. E uno, anzi no, bugia, lei aveva dormito dentro l'accoso in ferro del forno crematorio. Sì, ho visto quello del sanatorio, ho visto quando sono entrati in quel palazzo dove c'era quella conversa che praticamente si faceva i tipi e poi li ammazzava e li buttava nel pozzo. E diciamo che sono cose per ravvivare la notte. E io mi riguardo, cioè mi vengono i brividi, cazzo, mi salgono i brividi sino alla testa, ci credi? E l'altra volta c'erano quelli indemoniati, proprio quelli cattivi, hanno fatto il ringhio proprio, l'hanno ringhiato. Ultimamente ho visto la puntata di quando sono entrato in quell'ospedale abbandonato, cazzo, gigante, gigantesco, e non sono riusciti a trovarla, l'hanno vista passare diverse volte, però non sono riusciti mai a trovarla. Sì, l'ho vista anche io, dove c'era anche cosa dei raggi, per fare i raggi, hanno fatto vedere, i macchinari per fare i raggi X. Ehi, già la conosco quella serie, però vabbè, secondo me è roba un po' inventata di sana pianta per fare audience, come dire, però io vabbè sono anche mezzo ateo, cioè non credo un po' nella religione, però sai com'è, mai mettere la mano nel fuoco, io non posso, la mano nel fuoco non ce la potrei mettere, che esistano o no certe cose. Invece sai cosa mi hai ricordato già? Quando da bambini, tipo 7 anni, entravamo dove si è nato tu, ti ricordi quell'ospedale che c'era qua in zona, abbandonato, praticamente vedevi questi macchinari medici grandi, no, che a me facevano paura, la roba d'ospedale mi ha sempre fatto paura, e poi trovavi per terra le radiografie del teschio, radiografie dello scheletro e tutto, ed era tutto semi buio lì in penombra, ti veniva una fifa quando sentivi un rumorino, che magari era un gatto randagio che si era riparato dentro, iniziavamo a urlare, a scappare, una fifa. Comunque la parte più spettrale era la parte più bassa e più nascosta dell'ospedale, praticamente era la lavanderia, era molto in basso. Guarda già, aspetta, poi noi avevamo 7 anni, quindi poi eravamo, sai, più impressionabili. Adesso a parità di età sono dei mostri i bambini di adesso, ma all'epoca una fifa, eppure ci piaceva avere e provare paura e scappare, capito? E invece noi da piccoli di notte dovevamo avere il coraggio, ci arrampichevamo nella scuola numero 6, c'era la sala dove facevano le scienze e c'era un teschio, dovevamo avere il coraggio di arrivare sino al teschio, passarli davanti e poi tornare indietro correndo, ma c'era la fifa, e dopo era un teschio di quelli di plastica, di quelli, però intanto da bambino, capito, devi vedere diversamente le cose. Esatto. Era la clinica, come si chiama? Mi hai detto che eri nato lì? Il nome mi sfugge, uia, un vuoto di memoria ciò. Sant'Anna mi pare che si chiamasse. Clinica di Orruzio. Esatto, bravo. Clinica Sant'Anna, sì, era proprio a fianco a casa. E lì già, la FIFA già veniva. Questi macchinari radiografici anche grandi, che a me mi hanno sempre spaventato. Tuttora, non è che. Quella me la raccomando. Era la clinica dove rovinavano le persone. Mio padre aveva mandato mia madre lì per agevolarla di più, per farla stare meglio, perché era una clinica privata. Cazzo, mi hanno rovinato il braccio. Ma quelle non erano le cliniche di Urru, o sto sbagliando? Allora, mi suona familiare il nome. Come si chiamasse? Sì, forse c'è ragione tu, Giuseppe. Sì, il nome è familiare. Quella che rimaneva nella curva a destra in Viale Mameli. Sì, lì è. Adesso cosa c'è, Marco, lì? Lì c'è l'ufficio tecnico. Comunque, vabbè, lì è dove sono nato io. E togliendomi mi hanno fatto venire una parisi al braccio. Meno male che è passata però. È passata perché mamma mi portava ogni giorno ad Alghero, c'era un massaggiatore cieco che mi faceva i massaggi e mi faceva delle applicazioni elettriche, però non è al 100%, Marco, perché se devo cambiare una lampadina dall'alto non ce la faccio, non ce la faccio a sollevarla in alto. Ah, quindi qualcosa ti ha lasciato. E pensa cos'era successo a Paoletto. Paoletto Micolis era così perché pare che alla nascita, sai, estraendolo col forcipe abbiano stretto un po' troppo la testa e hanno fatto danno. Però Paoletto non so dove sia nato, questo non c'entra con la clinica Sant'Anna. Ah, ecco. Che te l'ha detto lui? La cugina, stesso cognome. Ah, vabbè. E se l'avessero fatta adesso gli avrebbero fatto la denuncia, se avrebbero fatto anche i soldi, ma non ha mai fatto denuncia né nulla. Ha solo pensato a farmi guarire e basta. Ogni giorno andava al Ghero col treno, infatti gli dicevano i ferrovieri, oramai la conoscevano perché saliva ogni giorno. Signore, anche oggi che sta piovendo con questa giornata, a me non mi interessa, l'interessante è che mio figlio guarisca, gli dicevo. Meno male che hai fatto quella terapia. Mi hai detto era anche con stimolazioni elettriche, tipo quando ti fanno quell'esame dei muscoli, come si chiama, quello che ho fatto anch'io, l'elettromiografia. Io lo chiamavo il cacciavite, perché sembrava un cacciavite, questo affare che mi mettevano, era tipo, sì, era fatto come un cacciavite, tipo il manico e questa punta, che l'appoggiavano e dava tipo scosse, capito? È un po' come quelle cose per i culturisti, quelle scatoline elettriche con le ventose, no? Per stimolare i muscoli, no? Quella roba lì, gli elettrostimolatori. Io ne avevo comprato uno dai cinesi, 10 euro, ma tu devi vedere la potenza che aveva questa cosa. Faceva i massaggi, ui, quanto era bello quando massaggiava. Poi c'erano misti, faceva massaggi, dava la scossa, sentivano delle punture proprio. C'è una cosa allucinante, 10 euro, funzionava con due batterie, ma non sai quanto era bello. L'ho avuto già, che c'era quella specie di valigettina, ci avevi vari elettrodi, istruzioni, la scatolina di comando, diciamo, la console principale, l'ho avuto. Poi l'ho regalato a una ragazza che ho avuto, ci aveva dei problemi al braccio, gliel'ho fatto provare, mi è piaciuto e gliel'ho regalato, dai, gli ho fatto un regalo. Vabbè. Fottito un uomo. Vabbè, avanti Giuseppe. Io ce l'avevo con due rotelline per dare più potenza all'elettrodo destro e sinistro. Anche io ce l'avevo così. Lo sai la gente che ho fregato? Io mi mettevo l'elettrodo, lo mettevo anche a lui. No, guarda, a me non mi fa niente, a lui glielo mettevo a 6. E io faceva, dicevano che non dovevi essere malato al cuore, perché se no faceva male al cuore, perché cazzo faceva fare certi battiti allucinanti. Lo mettevo per fare i pettorali, mi li faceva muovere, ma in una maniera allucinante. Se poi l'ha avuto già lo sai. Sì, sì, hai voglia. Ma a me mi piaceva quando mi massaggiava la schiena. Ah, quanto era bello, rilassante. Hanno fatto una bella cosa e sono, se sono saputi, se uno li sa usare, diciamo che sono comodi. Sì, io quando ero rilassato, coricato, così, me li mettevo. Solo lo sai cosa c'era? Che quelle ventose dopo un po' non attaccavano più. Le mie col passare del tempo rimanevano sempre più appiccicose. No, invece queste qua dovevi bagnarle per aderire, capito? Perché se no non attaccavano, ma comunque poi una volta bagnate già attaccavano. Sì, c'aveva le rotelline anche il mio, poi c'aveva i programmi, no? Potevi mettere il programma misto per dire massaggio della schiena, massaggio, aveva diversi programmi, era piccolo ma sincero. Cappa, io una notte l'avevo messo nella gamba di mia moglie, ma l'avessi fatto, è stata una settimana che non mi parlava. Davvero? Scherzi da prete. Comunque Giuseppe, lo sai che forse hai ragione, quello che avevo io aveva dei pulsanti ma aveva anche la rotellina laterale. Mi Gianni, te lo mando, dimmi se era questo. Eia. Ah, ce l'hai ancora? No, l'avevo buttato, credo. Tanto non lo usavo. Anzi, speravo che funzionasse per stimolazione sessuale, ma non ha funzionato. Cioè manco con quello ti funziona. No, già funziona, ma credo che avesse qualche effetto sollecitante, diciamo. Aio, ma per carità. Ciao Tino. Buonasera. Anche a questo punto siamo. Qualche volta anche peggio. Allora già va bene, ecco, la buonasera a tutti, Ciao T, ben entrato. Mi copi bene? Guarda, MB più 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ma vengace nell'ana. Adesso dai, non diamo solo la colpa a Marco. Sotto sotto chi è che non l'ha provato? Tutti zitti. Sì, fa piacere. Marco, io ho spezzato una lancia in tuo favore. Tutti zitti, magari l'hanno provato tutti, ma non lo dicono. Ma infatti, come non hanno detto poco fa per la questione di quei film, che il terrore puro non era vederli, il terrore puro era la notte, quando dovevi alzare a pisciare, attraversare il corridoio. Aspetta Gianni, ti sto mandando la foto, questo adesso io non me lo ricordo, l'ho avuto che erano 15 anni fa, 20 anni fa, era dei cinesi, credo sia questo quello che ho avuto, o comunque era molto simile, dai te lo mando. Poi già questo nome che gli danno, Gold Hand, mano dorata. Hai avuto un'ispirazione lì allora, No, dico, a questo punto potevano anche chiamarlo Maria Mano. Sì, Marco, era uguale al mio, però io non l'ho mai usato per fare cose oscene, l'ho usato solo per massaggiarmi i muscoli e farmi le carezze della schiena, che bello. Marco, hai sentito? Sì, sì, no, ho sentito quello che ha detto Gianni, non so se avete parlato in due o in tre. No, abbiamo sentito tutti quello che ha detto Gianni, però chissà perché tutti negano. Si fa ma non si dice. Cappagatta. Con quelle putture che dava, ti rubo in chimi guai, il dolore. Io ho provato con i cavetti della batteria. Io ho provato con i cavetti della batteria. Cappagappuia. No, però era un bel forte, dava degli scossoni allucinanti, ecco l'affare. I muscoli ti si muovevano. Hai detto Gianni, quando lo programmavi con le pulsazioni, cazzo, quello era micidiale, ti piegava il braccio. Eia, tu, cavolo, ti facciamo per il muscolo. Eia, comunque vabbè, ma adesso a parte gli scherzi, sì, dava delle punture tipo elettrico, quindi usarlo in certe zone magari era troppo, sarebbe stato ambiguo, dai. E a seconda del programma che usavi era anche un po' fastidioso, un po' forte era, dai. Soprattutto quando le batterie erano cariche. Poi vabbè, io l'ho preso per curiosità, io non... Alla fine poi ce l'ho buttato, io non è che mi facessi i muscoli, cosa? Non vi ne è muscolo. Vi ricordate quel programma che dopo che finiva di ticchettare e cominciava a come una vibrazione, sembrava che stringesse sempre di più? Sì, era un programma misto quello lì. Esatto Giuseppe, me lo ricordo, sembrava che una morsa che stringeva, però sentivi anche il pizzico dell'elettricità, a me non piaceva nulla, io sono molto sensibile all'elettricità. Infatti è la stessa sensazione che provavo io, infatti quando lo mettevo a misto, quando arrivava quel programma lì era terrore puro. Faceva prima una cosa, poi l'altra, quello lì era quello più completo, là. E li ho provati tutti. Poi te l'ho detto, ho avuto questa ragazza che l'ha provato perché ci aveva un dolore, gli è piaciuto e gliel'ho regalato, se no l'avrei avuta ancora. Ehi, adesso io mi ricordo che un amico ne aveva preso uno simile, però più potente probabilmente. Lui quando mi ha passato le ventose era già attivato, probabilmente era anche a manetta, l'ho preso con la mano, mi ha dato questa botta alla mano. Ma proprio una botta, non so nemmeno se fosse, magari l'ho preso con le dita, quindi magari ha scaricato tra un dito e l'altro, ma sembrava quasi una cosa fuori norma. Vai Tino. Tino ci ha fatto i muscoli così, con quella macchinetta lì, vero Tino? Ehi, poveri pisica, su e giù. Altri tempi, già adesso i muscoli sono andati a farsi friggere, però vabbè, anche quello è passato. A proposito di fritture e compagnia bella, ma Dindilino, dove è posteggiato? Ci sente? Rientra? Tattalino. A quest'ora mangia, sono già le 7:20 e avrebbe, forse ha già finito di mangiare dalle di cena. Secondo me è nero perché il 3009 sta andando male. Quindi ha avuto il coraggio di cenare senza dirci niente. Ma io glielo ho detto, l'unica è aprire il coperchio e controllare se tocca qualche filo, perché se fosse stato solo con un microfono che lo faceva sarebbe stato diverso, se poteva essere dal microfono all'interno, poteva essere lo spinotto, ma lì era attacco, o è l'attacco del microfono o è il potenziometro del mic gain. Oh già, ti ricordi quando mi si era impallato questo 7009? È uscito in macchina, l'avevo lasciato poi tornando nel cofano, vado a accendere, a casa c'era il display tutto acceso, tutte le icone, tutte, e non ascoltava, non impallato. Allora sai cosa ho fatto? L'ho staccato dall'alimentazione, vabbè questa è roba digitale più delicata, allora ho staccato l'alimentazione, l'ho acceso in modo da scaricargli tutti i condensatori, cioè l'ho acceso senza alimentazione, ho ricollegato ed è partito tranquillamente. Cazzo, allucinante. Probabilmente anche il cambiamento di temperatura dentro il cofano non si tiene mai, è un casino, si rovinano così, o per dire nelle, come si chiama, nel magnum che c'ho, che metto in macchina, il microfono non andava più, non usciva il radio, ho provato mille cose, pulito, fatto, passato spray, niente da fare. Alla fine sai cosa ho fatto? Ho lasciato la, tutta la, lo scheletro del microfono originale, ci ho messo un altro microfono dentro, adesso va benissimo. No, ogni tanto vedo QRM, non so mai. Poi questi qua già, questi nuovi, praticamente non sono come il 3009, questi sembrano più uno smartphone, un cellulare, e dentro hanno due microchip. Allora uno è la, uno praticamente il firmware della radio, che si programma in fabbrica solo una volta, credo che non possa essere riprogrammato, e l'altro è il chip che ti tiene le impostazioni della programmazione che li fai al computer o le impostazioni che li fai tu da menu, e quella è modificabile, quindi sono due microchip, uno è il firmware e l'altro è le impostazioni, è più un cellulare questo che è un baracchino, capito? E poi anche quando lo apri sembra un cellulare, cioè, non sembra nemmeno più una radio. Vai Tino. Vai. Sto facendo un collegamento di microfono, se poi avete 2 secondi ve lo faccio sentire. Fai sì. Avanti Giuseppe. Dimmi una cosa Gianni, di radio com'è questo? Lascia perdere il segnale. Buonissima la radio, molto buona, va benissimo, sempre tu sei Giuseppe. La radio, infatti stavo per più troppo poco fa, la radio è sempre perfetta, bella, c'ha un po' di eco, ma diciamo che non è di quelli che disturbano, è proprio una punta di eco, ma ti dà l'amplificazione giusta per uscire bene. Cappa, dai, vuol dire che sta girando bene, anche se adesso era un pochino fermo. Questo che apparecchio è? È sempre l'S9 già. Ah, l'S9, io ero un grido io che ci vede. Ragazzi, allora, io ho terminato, dai, vi faccio sentire se cambia qualche cosa. Lo attacco e poi mi fate sapere, grazie. E io attivo. E io poi avevo preso il 980 che è uguale all'S9, però diciamo che l'avevano perfezionato, dai, in qualche piccola cosa l'avevano perfezionato. Eccomi, sono qua. Ha cambiato qualche cosa? Adesso c'hai una bella modulazione con toni medio-alti. Ah, migliore questo già, il microfono? Sì, mi sembra più bello questo qua, perché c'ha più toni. Allora, sentiamo anche il parere degli altri, se va bene, Marco. Guardati, io uso un volume un po' bassino, se tu non me l'avessi detto che cambiavi mic, probabilmente non me ne sarei accorto. Da questa parte la voce è più, io la sento più nitida, più squillante, più alta. Addirittura più alta? Ah, va bene. meglio così, dai. Allora, se mi fate, cioè se mi date conferma che questo è migliore, allora tengo questo, dai. Questo che microfono è? Allora, è il gemello di quello che avevo io, però lo sto provando perché aveva dei difetti e quindi adesso ho fatto delle saldature e l'ho rimesso a posto, dai. Ah, ecco. Andate. Giuseppe, sempre bella quella radio, sempre, sempre bene. Io te l'ho detto, nel mio praticamente non usciva più di radio il microfono, a volte stavi parlando e spariva la radio. Ho provato a spruzzare gli spray dovuti, li ho spruzzati nel PTT, prima l'aria e poi lo spray per contatti. Niente da fare, stava per un po' di tempo, poi non usciva di nuovo. Allora mi sono rotto le scatole, ho preso un microfono simile, capsula uguale, tutto quanto uguale, ho preso, ho tolto da una parte e messo dall'altra, tanto avevo lo stesso attacco e va benissimo. Ma guarda, questo qua che sto usando io adesso, tu lo sai, no, che ha girato mezza Italia. Già lo so, ma forse c'è qualcuno che te lo può mettere a posto. Poi dopo che tu hai avuto quel problema, ce ne sono stati altri che hanno avuto lo stesso tuo problema, lo sai. Probabilmente era un difetto di fabbrica che avevano loro, però a me non me l'aveva mai fatto, mai, ti giuro, mai successo a me. Può essere, però l'unico che è riuscito a farlo andare è stato Vittorio, perché io quando lo accendevo c'era il frequentino, stava sempre andando, non si fermava mai. E adesso invece? Adesso è fermo, adesso sono sul 27.075, però nel display mi dà canale 9, sono un canale sotto. Lo sai chi c'è bravo? Albino, quello di coso, di... ma come si chiama? Aiutami, o Marco, te lo ricordi Albino dove, in che paese è? Ma quello che ha aiutato Carlo? Esatto. Non mi ricordo il paese. Non so nemmeno se l'ho sentito il paese. Bisogna chiederlo a Carlo appena entra. Potrebbe essere Borore, Gianni. Sì, di Borore, sì. Albino, quello lì, ha messo a posto sia il mio Galaxy, che non usciva più, me l'ha cambiato i finali e me l'ha rimesso a posto. Poi a Carlo, un altro amico, gli ha cambiato il tasto delle baracchine, comprato da poco, da un anno mi pare, e ci aveva un problema, si è spento di colpo e non voleva più accendere, ed era il tasto dell'accensione. Gli ha cambiato quello, l'ha tolto da un altro apparato che ci aveva lui per pezzi, ce l'aveva uguale identico, gliel'ha cambiato e adesso va bene. È molto bravo quello lì, e ne ha preso una fesseria, ti prende 20 euro, 10 euro, una gazzata. Lo so Gianni, lo so, però la paura mia, sai qual è? Di farlo toccare questo apparecchio, perché se poi riparte il frequenzimetro è inutilizzabile. Cioè l'unico problema tuo è che c'è uno scarto di un canale. Quindi la frequenza è giusta, è il canale che il coso del display dei canali che non sta andando. Ma magari si può regolare, magari ha avuto solo un coso. A volte lo fanno anche quando c'hanno colpo di caldo, di colpo, e succede così. Nel cambiamento di temperatura, negli sbalzi di temperatura, li fanno sballare, specie quando c'hanno queste cose elettroniche eccetera eccetera, si sballano subito. A me una volta mi era successo in questo qua, che se il display era diventato tutto oscuro, l'ho spento, riacceso e si è ripreso subito. Sono cose molto delicate. Magari se si trova il frequenzimetro direttamente da un altro apparato, che lui ne ha diversi, c'ha apparati accatastati, mi ha detto Carlo, da aggiustare per pezzi di ricambio, quindi se magari c'è qualche senove che non va e cose, lo togli da una parte e lo mette nell'altra. Io questo qui, la storia di questo S9 è stato che la sera stavo modulando, poi niente, ci siamo salutati, l'indomani sera quando l'ho acceso ha cominciato a correre e non c'era rimedio a fermarsi. Podista è diventato. Giuseppe, io non so cosa dirti, però io quando io te l'ho dato quell'apparato andava benissimo e poi tu l'hai usato per un bel po' di tempo, quindi già te ne sei reso conto che era nuovo. Sì, ma non è quello il discorso, la cosa è stato che è usato sempre coi guanti e poi ti molla. Ma non è che tu gli hai attaccato qualche lineare, perché quegli apparecchi lì escono con più watt, quindi se li dai troppo di entrata, magari con qualche lineare, tu ci avevi, me lo ricordo, 747. Cappa, mai andato questo col lineare? Ma al limite crepi il lineare, ma non la radio. Non è così, Gianmarco, a volte si crepa anche la radio. Non è così. Comunque io l'ho letto su diversi forum che hanno questi S9, ce ne sono stati parecchi, anche a Gio Maria gli aveva fatto problemi il frequenzimetro, adesso non mi ricordo se si erano spenti dei numeri. Guarda Gianni, io adesso qua sono in D, vado in C, vado in B, vado in A, non succede assolutamente niente. Cioè non ti cambia le bande? Non cambia la frequenza. No. E allora lì è il commutatore. Magari se ti cambia il commutatore lì risolvi tutto il problema. Comunque già, leggendo i forum americani e anche italiani, un po' di problemi hai con le radio lì, soprattutto al frequenzimetro. Come ha detto Giuseppe, o iniziava a correre e non si fermava mai, oppure ti si bruciavano i segmenti dei numeri e poi vai a trovare ricambi, non trovavi ricambi. Vai Giuseppe. Assolutamente no, perché io mi ricordo l'avevo, ha girato mezza Italia questo S9 cercando di farlo riparare, ma non ne hanno cavato piedi perché non c'erano pezzi. Perché gli americani sono girosi, non te li mandano i pezzi, devi mandarli da loro a farli aggiustare. Non ne mandano pezzi, capito? Sono gelosi. L'unico che mi ha fatto partire la radio è stato Vittorio. E comunque vabbè dai, stai modulando, esce anche bene oltretutto, è una bella radio. Sì, però dico, cavolo, hai la possibilità di sfruttarlo al 100, però pazienza. Guarda, se vuoi andare ad Albino a portarglielo, ti faccio compagnia, io vengo anch'io con te, non c'è problema, glielo portiamo mi faccio dare il numero di telefono da un amico e glielo porti e glielo fai controllare. Ma tu c'hai confidenza? No, però Carlo sì, Carlo le ha portato due di apparati a aggiustare. Perché magari prima di andare chiamarlo e spiegargli la problematica. Eia, basta Giuseppe, Carlo c'ha tutto, c'ha il numero, sa dov'è, tutto quanto, capito? Perché ne ha portato due ne ha aggiustato di apparati, uno gli ha preso 20 euro, l'altro 10 euro mi pare, è una cazzata, è onestissimo, capito? È bravo e onesto. Sì, ma non è per quello, per carità, per quanto riguarda l'onestà, è giusto sapere, spiegandogli le problematiche di questo apparecchio, sapere se lui è in grado di sistemarlo, se ha i pezzi. Infatti, ma lui c'ha anche molte radio che gli hanno dato per pezzi, capito? Magari ce l'ha qualche S9 che magari c'è il frequenzimetro che va bene, perché poi i 980 avevano praticamente risolto questi problemi qua che dava, capito? Con 980 gli hanno risolti, meno male che io l'ho pagato 500 euro il 980 e non l'ho pagato 2 lire. Vai Marco. Sì, pausa per me un attimo che sto guardando roba su internet. Provate a chiamare Natalino, vedi se ha risolto. Natalino, avanti, ci sei. No, non risponde, Natalino starà mangiando. Vabbè. Comunque Giuseppe, io già lo sai, sono libero, quindi adesso sono in pensione, quindi se tu vuoi andare ti faccio compagnia, io andiamo insieme e niente, capito? Perché ti ripeto, è un cranio questo qua, se c'hai pezzi te lo aggiusta. Dai, adesso vediamo cosa si può fare. Io al limite mi faccio passare da Carlo il numero di telefono e te lo do, poi vedi tu. Cappa, dai. È capace che te lo torna e poi ti allinea, capito? Ti allinea le frequenze, c'ha tutti gli strumenti, capito? C'ha tutta la strumentazione. Carlo mi ha detto che c'ha cartasse di apparati da aggiustare, poi non aggiusta solo apparecchi, aggiusta lavatrici, frigoriferi, di tutto e di più. Figurati, appassionato alla grande, fa bene, comunque sono belle cose, a me sarebbe piaciuto riuscire a capire come funziona, come puoi fare, dove mettere le mani. Ma quello lì sono cose che bisogna studiare per queste cose qua, non è facile. Cioè tu puoi arrivare fino a un certo punto e poi se non hai le nozioni per farlo è meglio che non li tocchi, perché se no fai danno. Ma infatti. Attaccare un microfono, queste cose qua, sì, fare una saldatura. Io per dire mi ho fatto dei ponticelli nell'MB più 4 e esce il doppio di come usciva prima, perché gli ho praticamente bypassato delle resistenze che lo tenevano limitato, erano dei limitatori praticamente. E vedi, e anche lì bisogna sapere dove metterci le mani, però sai, è ancora un microfono, ma è dentro... c'è l'allarme, mi sta rompendo le scatole. Non si può staccare, Giuseppe. No, è disattivato, però prende il coso, il segnale. Ah. Sì, diciamo che io ho lavorato con lo schema davanti e l'ho fatto. Mi hanno mandato lo schemino come farlo e io l'ho fatto. Signori, mi sa che io adesso vi saluto e niente, ci sentiamo alle prossime. Ehi, a Giuseppe, se ti interessa io chiedo il numero e te lo faccio avere. Cappa, dai, un saluto circolare a tutti e buon fine settimana. Ciao Giuseppe, altrettanto, avanti Marco. Cappa. Ciao Giuseppe, buona serata, buon tutto e ci sentiamo alle prossime. Vediamo se è rientrato Tino. Sì, ciao Giuseppe, ne volevo approfittare anche io, infatti mi devo allontanare per fare la mia luce, sono rientrato al lavoro, quindi mi sono messo a fare due cose veloci qua. Vi saluto tutti quanti, vai, nel caso se coincide e se ne avete voglia stasera. Ciao Tino, ciao, stammi bene. Avanti Marco. Ciao Tino, ci sentiamo le prossime, buona serata, buona cena, buon tutto. Oh già, noi quanto siamo? Tutta la sera in radio. Vabbè, tu dici. E a che ora siamo entrati? Alle 5, fra un po' sono le 8. E vabbè, d'altronde mi, se non usciamo a passeggio, la serata è lunga, mi. Io vabbè, diciamo che c'ho un po' di stanchezza perché stamattina mi sono pulito tutta la casa dall'A alla Z, bagni, scoppato, spolverato, tutte le camere, cucina, qua, mi sono, i terrazzi pure, tutto quanto, mi sono fatto un bel mazzo, quindi mi sono sdraiato, ho detto se c'è qualcuno in radio lo accendo, se c'è qualcuno mi rilascio un po' perché ero stanco morto. Eia, però poca roba, mi, chi è entrato? Natalino è entrato, e boh. Vabbè, c'era Luca Flipper anche prima, poi ha staccato un po' perché lui sta sempre facendo roba lì, creandomi. Poi, vabbè, Giuseppe, ecco, è stato Giuseppe, Tino, però poca, sempre poca roba un po'. E poi alla fine già non riusciamo a fare una rotta come Dio comanda. Praticamente sempre per fare la battuta al coso, riprendiamo assieme, ci moduliamo sopra in due, in tre, e non fa, dai. Ok. Vabbè, va bene lo stesso. Io l'avevo proposto di fare così, rilanciare magari avanti Marco, però magari non lo rilanciate, lo riprende l'altro, è la stessa cosa. Ma poi io so già che ne so, tu riprendi tu e mi dici qualcosa, no? A cui io dovrò rispondere, poi che ne so, riprende Attalino, mi dice qualcosa, magari riprende un altro pure, e io poi mi dimentico quello che devo dire a te, che devo dire a Attalino e a quell'altro, me ne dimentico già quando a fare il giro di ruota, ecco come si diceva, mi sono già dimenticato le risposte che dovevo dare. Se la strada ti sta bene. Sì, secondo me sì. E non ricordo mai i nomi degli attori, non ricordo i nomi delle. Non mi vengono i termini certe volte. E potrebbe essere un sintomo quello lì, che ne so, d'altronde mi già. Di qualcosa bisogna schiattare. No, ma succede anche a me, non ti preoccupare, succede anche a me qualche volta. Voglio dire una cosa e non mi viene il nome, capito? Non mi viene il nome nel momento, adesso per dire Morore, il Pagi lo sapevo, però non mi veniva, capito? Me l'ha detto Giuseppe, sicuramente anche lui lo conosce al mio. A volte capita, dei lapsus vengono. Non riesci a ricordarti magari ciò che devi dire, oppure quando mando i saluti la notte, no? Mando la buonanotte, siccome io faccio così, prendo uno e poi li mando a tutti uguali, cosa devo usare? 3 ore di gente. E poi devo mandarlo a quello che mi ha mandato per persona e non mi ricordo da chi l'ho preso, capito? Sì, oppure magari se la rotta è nutrita, io dico un saluto a tutti, magari non mi vengono tutti i nomi, che ne so, vabbè. Ah. Serata casalingua, speriamo ci sia qualcosa in TV di bello, se no mi scelgo qualche film o telefilm da guardare di roba già stoccata. Non ce l'hai Netflix? No. Si fa l'abbonamento lì, film ce ne sono a gogo, anche prima che escano al cinema ci sono, figurati. Noi abbiamo fatto un abbonamento unico e poi ne usufruisco io, non usufruisco a casa di mia moglie, quindi un abbonamento unico lo usufruiamo in due. Ma tu unico vuoi dire che copre i familiari o che comprende Netflix, che ne so, HBO, Amazon Prime, varie piattaforme? Eia, quello che copre tutto. Per dire, io se lo accendo a casa posso scegliermi il film e guardarlo, ma no, io non, Marco, non riesco più a guardare un film come si deve, mi addormento prima che finisca e non riesco mai a gustarlo come devo, perché a quell'ora lì mi drogo, oramai sono più vicini. Io per me è duro dormire, quindi devo passare un po' il tempo finché non crollo, vabbè. Netflix, sì, quello è che sono troppe, c'è uno è Amazon Video, come si chiama, Netflix, un sacco ce ne sono in queste cose qua, alla fine se ti fai tutti gli abbonamenti spendi un capitale, boh. Ma a me pare Netflix che sia 20 euro, una cosa del genere, che paghi. Sai cos'è? Che tu naturalmente lo becchi tramite linea telefonica, no? Come dire? Con la TV Android, come dire? Hai già capito? Online le prendi. Perché te è uno streaming? Sì, è online. No, perché mi hai nominato l'antenna, ho detto come antenna? Quella roba online. Sai perché anche è un peccato da me, perché quella TV box Android che ho io, la scatolina che si collega alla TV, allora non ha le certificazioni per vedere la roba in Full HD. Praticamente anche se dovessi attivarlo, lì vedrei la televisione tipo 480p, come se fosse la televisione vecchia di una volta. Alla fine non so se valga la candela. Vabbè. E a me me ne è partito uno televisore, quello di cucina, mi sono dovuto comprare televisore nuovo. Mi ho preso un bel Samsung, ma c'ha dei colori che sono favolosi. Ehi, aspetta che cerco la certificazione. Certificazione, aspetta com'era, il nome è strano. Per vedere i canali Full HD o in 4K, dipende dal TV box. Sto nel quale cinese. non ha tutte le abilitazioni, diciamo, per vedere i canali in full HD, sarebbe un peccato, vabbè. Ieri poi l'hai visto la cartola che ti ho mandato, l'hai ascoltato? Praticamente un misto di vari testi. Come? È un misto di varie canzoni. Ah sì, perché si chiama Medley Massimo Ranieri. Ma io, siccome ho visto i commenti e tu ringraziavi, stavo cercando di capire se si poteva mettere il voto positivo, oppure è un altro sistema quello. Sì, se loro praticamente chi ascolta è gente che canta, no? Gente che canta come te, ti mandano, ascoltano e ti mandano il loro parere. Ti possono mandare anche il parere negativo, ti possono dire la voce non mi piace, eccetera, eccetera. Ecco già, l'ho trovato, Questa è una cosa che vale anche per gli smartphone, per i tablet. Allora, la certificazione per vedere questi canali in streaming in Full HD o in 4K nel caso, si chiama Widevine L1, Widevine. Se è L1 te lo fa vedere, invece i telefoni cinesi hanno L2 o anche L3. Capito, e più il numero alto è meno vedi definito praticamente. Ecco, L3 è il livello più basso, L2 è il livello intermedio. Ma io ho buttatoci tutto. Meno me, arrivi due. Ciao già. Ciao Gianni. Cos'è questo morso che sta andando in sottofondo? Ciao già, ciao Marco. Sono rotture di scatole già, è roba praticamente di propagazione. Si sentono ogni tanto tipo telefono e squilla, di tutto di più. No già, era qua, il ricevitore acceso era. Ah, e io stavo già colpando la propagazione, infatti lo sentivo anch'io, tu. E quindi già praticamente quella TV box cinese sarà L2, forse anche L3 con certificazione, cioè magari pagare a prezzo pieno, non credo che facciano gli sconti, prezzo pieno per vederlo tipo la TV antica, vabbè, magari soprassiedo. Vai Gianni, Gianni l'altro, Gianni il profeta. No, non mi trattengo, dai, sono entrato a salutare, mi sto vestendo e sto scendo a sgranchirmi un po' le gambe, quindi niente, dai. Faccio un'entrata fugace, giusto per salutarvi, magari ci sentiamo un altro momento, ok, dai. Buona serata, ciao a tutti. Ciao, per bicicletta? Affermativo, eia. Mentre è così non c'entra neanche. Cosa dà la divisione da V? Ciao Natale, dai, alla prossima. Ciao Gianni, dai, buon proseguimento di serata, buon tutto. E beh, Natale è risolto. No, dove c'è il modulatore partito? No, ma Natalia, se parte il modulatore non esce proprio di radio, invece lì innesca, manda anche un innesco forte. E quindi qualcosa esce dal modulatore. Sì, ma sta andando a fanculo. Mamma mia, che peccato. Vabbè, niente che non si possa risolvere, ricorda che quello c'è anche componenti di un certo volume, cioè facile anche da cambiare. E anche penso che li trovi, Sì, non ne ho tempo, faccio prima aprire il cassonetto e faccio il primo. Noi con gli unipini, tutti di tutti, a dovriare 11 astronta, mamma mia, va, cioè dirvi... Eppure mi pare strano, non riesco a capire, prova a scaricarli con essa tu, vabbè, una stronzata, ma io la dico qua, l'ho fatto per questo, perché avevo un altro problema transitorio, vabbè, non saprei... Oh, sembra fatta apposta però, Ci hai preso un apparato nuovo e ti si sbarra l'altro. Non è che ti hanno messo occhio. Sì, più probabile, tu ti rimane la zona in cudicia, Fai come me. Comunque se lo butti, vabbè, si dice, ma se lo butti dimmi dove lo butti che sto venendo col bustone. Pure a me, non mi è mai successo, Natalì. Eppure i microfoni ne ho provati col 3009, quello tutto aperto, no? Palmari, non palmari, però non sono mai arrivato a sbarrare il coso, il modulatore. Dubito comunque che sia quello. Sembra qualcosa di massa. L'importante è che non ti balli la presa femmina, no, del microfonica, che non si muova, non sia che spostandosi abbia toccato qualcosa dentro. sai, le saldature interne, no, già hai capito. Ma se lui non fa nessuna prova, non è che te l'ho detto di aprire il coperchio e di spruzzarle un po' di cose sul potenziometro del Mikey Gain e vedere se funziona così. Magari è una gazzata e lui ce la sta prendendo così. No, ma infatti bisogna fare i controlli a mente fredda, adesso ci hai arraggiato, giustamente, anche mi sarei incavolato. Se un baracchino di botto comincia a uscire così, magari domani a mente fredda riesce anche a risolverlo. Io non dico di mettere le mani dove non le può mettere, però se li spruzza appena di quel spray per contatti, li spruzza l'aria, poi un po' di spray per contatti e vedere, e lo fa muovere il potenziometro, magari muovendolo c'è un po' di polvere che sta facendo da massa. Ebbè, basta vedere quei due microfoni, uno di serie, l'altro il KPO, sembravano da buttare, giuro, sembravano da buttare, ho detto, ce li lampo, e invece è bastata una bottarella di aria spray e poi il... Certo non metterei direttamente il coso io già, come nei microfoni miei, e il cericino, sia che faccia impasto, per quanto quello evapora, comunque non rimane umido, capito? Però ho preferito spruzzare prima una bottarella di aria spray, che poi più che aria è gas. Sì, se no si impasta tutto, se c'è la polvere che tu rimetti solo lo spray, senza mettergli l'aria si impasta tutto. Io ho usato l'aria spray, lo stesso, l'ho pulito con quello e poi gli ho messo lo spray per contatto. Sembra miracoloso. Comunque ci sono dei casi che lo spray per contatti non li fa nulla, invece il CRC, quello marino, quello per contatti marino, quello lì mi ha risolto il problema. Ehi, il CRC marino mi ricordo era oleoso. Sai dove lo usavo il CRC marino? Andava bene molto per il maialino, quello benzina per andare in acqua, per andare lontano, no? E lì il CRC marino faceva bene alle viti, anche, non dico le parti elettriche perché quelle erano anzi stagne, erano stagne, però per il resto andava molto bene, era proprio fatto apposta. E se finivi la benzina, come facevi? No, e a quando finire, già per finire la benzina dovevi stare un'ora e mezza andando, cosa impossibile, però ti aiutava molto, mi, sai perché? Che in teoria no, vicino alla riva non è che puoi pescare, devi allontanarti almeno, loro dicono 500 metri, ma 500 metri sei in mare aperto, ma almeno allontanarti molto dai nuotatori normali, dai bagnanti, ecco. Ma poi tu cosa facevi? Pesca subacquea, cioè lo usavi per andare lontano e poi cosa facevi? Lo bloccavi in superficie? Sì, lo spegnevi e lui galleggiava. Potevi lasciarlo acceso, ma a proposito, quello girava in tondo, non scappava, girava in tondo, è fatto apposta. Una volta mi è arrivato a testa, e sai dove? La pelosa, dietro la torretta. C'era un polpo a fondo, lo stavo guardando dalla superficie. Questo ha fatto il giro, mi ha beccato a testa. Certo, il colpo non era da svenire, ma ti dirò che mi ha sorpreso. Cioè, mi ha preso in contropiede. Lì può essere molto pericoloso se sei da solo. Non dico che ero da solo, ma quasi, perché mio cugino era scomparso, che stava inseguendo un altro polpo in mezzo, vicino alla torretta. Anzi, ti dirò già, se mi avesse beccato non alla testa, diciamo, sopra la fronte, al di sopra, ma se mi avesse beccato di lato, alla tempia, forse i sensi li avrei persi. E non bisogna stare molto, molto attenti a queste cose. Sì, comunque si può spegnere, rimane a galla, e non solo, ti fa anche da boa di segnalazione, perché c'è il tubo dell'aria lungo e gli metti in punta la bandierina anche di segnalazione. Ma quello sott'acqua non va? No, sott'acqua andava quello elettrico della Arcos, non mi ricordo, no, quello elettrico era marcato SEADU, SIDU della SIDU, sì. Quello andava sott'acqua e ti tirava giù. Come si metteva in moto quello con la cordicella? Allora, con la benzina sì, aveva la cordicella, tipo la motozappa, e quando non partiva le bestemmie, perché certe volte magari entrava un po' di acqua nello scarico, c'è nella marmitta, no? C'è una valvolina che non fa entrare, però ogni tanto un po' entrava. Allora ti e dalle, va, facciamolo sentire. Vabbè, entrava un po' d'acqua e non partiva, dovevi farlo tante volte. E alla fine, bene o male, partiva, e siamo pazienza già, con le pinne tornavi a nuotto, pazienza. Vabbè, sono sempre cose così, secondo me sono poco sicure, nel senso che se si bloccano in mezzo al mare quando si è nell'acqua alta è un casino. Il mare è proprio una cosa bella, come è bella e brutta. Se io ho rischiato, ripeto, ho rischiato di rimanerci perché siamo usciti col mare in tempesta, e io dicevo torna indietro a questa ricoga, no, che adesso come andiamo più avanti non c'è più mare, è venuta la burrasca di pioggia, vento e onde che ti coprivano la barca. Poi me l'ho vista brutta quella volta, non ci voglio pensare. Hai visto cosa è successo a quei poveri cristi? Poi c'è tutta una storia dietro, non ho ben capito cosa è successo, cosa volessero fare, cosa non sono riusciti a fare. Credo che l'ultimo l'abbiano recuperato oggi. C'è uscito tipo a Lubagno, roba del genere. Poveraccia la famiglia, c'era la sorella che stava già sclerando, voleva sapere che fine aveva fatto il fratello, vivo o morto, doveva saltare fuori. Telefono un attimo. Babbo, Natale, ci sei? Sì. Cosa lo stai aprendo? No, ho aperto il microfono e sono riuscito a toglierne il ferro. Adesso sì che è leggero. Capo. Avanti, chi vuole entrare? Babbo, da Natale, salutami a Marco, io sto andando a portare il cane che è già tardi, non me ne ho reso conto. Dai, ci sentiamo. Salutami Marco come rientra. Ciao ciao. Ciao ciao. Lo potrebbe salire fino a un metro. Già. Hola, Marco. Marcolino. Chi è avanti? Marco. Vabbè. Questo è il microfono del 3009. Sono riuscito a toglierne quel ferro là. L'ho conservato per fartelo vedere. 4 pezzi di ferro uso. E funziona bene, vedi? Su quell'apparato va bene. Quindi non è il mic, nemmeno. Sì, l'ho aperto per vedere e sono riuscito a togliere il ferro che c'era, quello che lo rendeva pesante. Che da me non c'è. Boh, allega una foto, sono curioso. Al limite la faccio adesso e te la faccio vedere cosa c'era dentro. E Gianni c'è ancora? No, Gianni ha chiuso per portare il cane. Perché sono le 8 infatti. Se no si fa tardi, fa buio, è un casino poi. Buonasera. Oh, buonasera signor Gianfranco. Mi stavo allontanando, ho alzato il boom, ho sentito che c'era qualcuno. C'era Natalino, e c'eri tu. Giusto per farvi un saluto, perché questo è già tardi, sono le 8, 8 e 5. Quindi c'è il rancio. C'era Gianni, poi era già chiuso, è uscito col cane. E noi siamo dalle 5, più o meno. Tanto la serata era lunga e non dovevo uscire. Passiamo la serata in qualche modo. Poi qualcuno è entrato, è uscito, insomma. Almeno qua escono di lì, escono solo, sopra. Niente, perché oggi, allora ti spiego, io da quando ci sono i muratori, il ponteggio e tutto, ho tolto tutte le antenne per la ricezione che avevo sul terrazzino qua, no? Che poi lei, là, quella UHF, no? Che però bene o male riceve anche l'HF. E da quando ho l'antenino interno col ricevitore arrivi solo tu, Roberto e Walter, Walter è una superpotenza, anche se ai punti lo sento lo stesso, tutti gli altri zero totale, potrei anche non accenderlo. E oggi non credo di non aver sentito nessuno, almeno in chiaro. Sono tutti in chiaro, ma chiaro non chiaro proprio, no? non c'è nessuno, solo a certi orari, un ciao, lo faccio e basta. Ma se vuoi, guarda, mi dovresti sentire anche con... col gommino. Adesso faccio una prova, se vuoi, se puoi ascoltare sempre. Sì, aspetta che metto 525, eccolo qua. E vai pure, dai, quando vuoi. Appena si accende, perché questi oramai sono abbastanza comodi come accensione. Natalia, come si usava? Te lo ricordi? Ma è un portatile. Sì. Aspetta, ci sono riuscito. Sei un duo banda. Adesso ci provo, però prima inizio proprio a zero. Credo che ci abbia 0,5 watt. Ci provo? Dica, allora l'antenino che ho dentro è un antenino telescopico da 50 cm ed è quello generico che danno lo scanner. Prova un po', se vuoi te lo faccio sentire qua a me, se mi autorizzi. No, meglio ne ho che qualcuno poi ci affetta. Vabbè, ma mi hai autorizzato tu, non è che ti sto traslando positivamente. Comunque fai, prova. Mi ha sentito? No, zero totale, conta che abbiamo anche il ponteggio intorno, che fa da ulteriore schermo. Vediamo Natalino niente? Natalino è caduto. Niente, nulla? No, nulla proprio, non risponde. Vabbè, sta armeggiando, dai. No, qua niente comunque. Prova a aumentare. No, non ero lì, non stavo ascoltando, l'ho messo adesso. Via, naturalmente Gianfra, quando dicevo in chiaro intendevo in analogico, dai, non in digitale. Anche in digitale, vabbè, siete in chiaro, però troppo costosi gli apparecchi per ricevere. Aspetta, sto facendo un po' di casino. Non mi ha sentito neanche adesso? Nulla. Donata di niente. Niente. Andiamo bene. Allora, com'era? Sono in M, in H, quanti saranno? 3 watt. Buonasera. Ciao Fra. Io ti ho sentito, Gianfra. Qua è drammatico. Ciao Fra, ben entrato, ben sentito. Ancora niente? No, qua nulla. Qua io ti sento quando sei con le antenne esterne, presumo. No, perché sono in ottica con te. Aspetta che passo dall'altra parte, magari siccome ci ho chiuse le, come si chiamano, le persiane metalliche, magari per quello. Passo da dove sono in ottica. Ricordati il ponteggio, e qua c'è pure il ponteggio, quindi fa da ulteriore schermo. Franco non mi copia. Franco, buonasera. Sì, ti copio. Io non ascolto a Gianfranco, va anche bene. Qua, caspita, con l'antenina interna è incredibile. Oh, può darsi pure che mettendo un'antenna adatta magari lo copi. Vabbè, tutto smontato, tutto conservato è qua. Un problema. Adesso stava parlando Gianfranco. Facciamo delle prove. Ciao Natalino. Ciao. Ah, lo sai che mi si è rotto il 3009. Ma quello nuovo che ti hai ordinato, no? No, un tempo a tempo ho fatto. Mi fa un innesco tremendo, il 3009 e non funziona. Allora, quindi c'hai, meno male c'hai... Si sarà offeso, poverino. Ma deve essere di sì, ho solo una visione che mi ha mandato i miei mogliti. Io non mi credo a queste cose, però... Marco, ancora niente? Qua il volume, vediamo, sì, il volume c'è. Lo squelce al minimo, come sempre, nulla. Oh, perbacco. Aumenta al massimo. Ciao Gianfra, qua arrivi, eh? Ah, da te arrivo, in che zona sei? Io sono qua a Montebasso. Allora è proprio un problema loro, che non sentono, è solo strano. Ecco, guarda adesso, prova. Con la stessa tempistica dell'apparato. Sì, avevo premuto tutte e due giusto per farlo ascoltare quando lo smettevo. Niente Marco, che c'è un'antennina magari lì. Sì Gianfra, ripeto, io ho l'antennino interno ed è un telescopico da 50 cm. Più fuori è tutto ferro, è tutto un ponteggio Gianfra, per quello è. che strano, ma almeno Natalino mi dovrei sentire, Natale. Ma ti ho sentito. Il segnale te lo dice. No, perché c'è il ricevitore come quello di Marco. Sempre a te ti riconosco subito con quel televisore a tutto volume. Vabbè, con Gommino di più non si può chiedere. Tu Franco mi sentivi anche al minimo forse? Sì, prova. Aspetta che lo rimetto al minimo, com'era? Ecco, prova bassissima potenza. Sì, prova, ti sento, bassino ma ti sento. Ma tu c'hai un'antenna adatta forse, no? Io ho un'antenna autocostruita qui davanti alla finestra, dai, nella finestra, nel davanzale. Antenne esterne, vedi? Sì, un'antennina, diciamo così.